Invece cambiamo completamente argomento e passiamo alla scienza. Qualche giorno fa, un inquietante articolo bizzarro su Repubblica sembrava stabilire o indicare che recenti ricerche scientifiche sul feto e sull'attività cerebrale dei feti umani indicassero che il feto già dai primi mesi era in grado di sorridere, sentire, aveva memoria, fare addirittura dei sogni. Su Left l'argomento viene affrontato con un'esperta che più volte ha già scritto sul settimanale, la neonatologa e psichiatra Gabriella Gatti, che è in collegamento con noi da Siena. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Allora, questo feto è molto più attivo di quello che pensavamo, oppure c'è un po' di confusione nella scienza al momento? Ma io penso che c'è confusione, forse nell'interpretazione dei dati che dà la scienza. Su questo articolo di Child Development parla di un riflesso che è il riflesso di abituazione, cioè un fenomeno più che un riflesso, un fenomeno di abituazione che è presente nel feto negli ultimi mesi di gravidanza e nel neonato nei primi 2 mesi di vita, 2 o 3 mesi di vita, ed è un riflesso, ed è un fenomeno di difesa di un sistema nervoso immaturo. Ma Per questa cui, abituazione è quello che viene scambiato per memoria? Cioè, preciso, è quello che viene ma che cambiato. differenza c'è? Io non me ne intendo assolutamente, immagino come me e tanti ascoltatori, tra l'abituazione e la memoria. Ecco, allora la memoria è un fenomeno estremamente complesso che ha bisogno del collegamento funzionale tra le varie aree cerebrali e quelle anche varie aree corticali e quelle sottocorticali. Quindi è un fenomeno estremamente complesso che ha bisogno dell'attivazione di tutto il cervello, mentre nel feto vi è una situazione di inibizione funzionale, cioè praticamente il cervello del feto è deconnesso, le varie aree non sono collegate fra loro e questo è dovuto all'azione di alcuni neuroormoni inibitori molto potenti, tipo l'adenosina, la prostaglandina 2, il pregnenolone ed altri, che mantengono il cervello del feto in uno stato di inibizione. E questo è una difesa del feto, cioè una difesa per la sopravvivenza, come l'abituazione è un riflesso di difesa per un eccesso di stimoli che potrebbe disturbare il feto e poi anche il neonato nei primi 2 mesi, 2 o 3 mesi di vita. Ma quindi è un sistema difensivo. Quindi il sistema nervoso del feto è, diciamo, fisiologicamente e necessariamente, diciamo, disattivato e attutito nella fase di Certo, crescita. è attutito, tant'è vero che non si, cioè, non è in uno, cioè, non può mai essere attutito, non si può parlare né di sonno e né di veglia. È uno stato, ecco, la parola giusta è attutito, più che attutito è deconnesso, la parola forse più la parola scientifica. Ma quindi tutte le suggestioni, per esempio, appunto, il feto sogna durante la gestazione. Questo è un altro problema, cioè il feto non sogna naturalmente, ma è perché attraverso l'elettroencefalogramma sul feto è stato visto che compaiono dei pattern elettrici chiamati non REM, REM e non REM. Ma nel feto la funzione del pattern REM è dovuta, cioè serve soltanto per lo sviluppo morfologico del cervello e soprattutto per la sinaptogenesi, quindi non ha alcuna funzione né di sonno e né di sogno, assolutamente. È un processo biologico che serve per far maturare il cervello, sia dal punto di vista morfologico che funzionale. Senta, lei in altri articoli che sono comparsi su Left, ma anche su altre pubblicazioni scientifiche, individua un momento preciso in cui proprio fisiologicamente avviene una trasformazione in questo senso Sì, nell'evoluzione del feto. allora, a proposito del discorso che ho fatto prima, a proposito di questi inibitori, no? Di questi neuroormoni inibitori, questi durano per tutta la gravidanza e sono verificabili anche nel canale del parto, perché se noi facciamo un elettroencefalogramma al feto che è nel canale del parto e quindi ha notevoli stimolazioni sensoriali, cioè compressioni notevoli, non ci sono variazioni nell'elettroencefalogramma. mentre appena nasce vi è proprio una notevole, cioè vengono registrate, vi è un intenso flusso di nuove sensazioni, stimolazioni, e questo è verificabile dall'elettroencefalogramma. Nel canale del parto, dove il feto subisce fortissime pressioni dolorose, suscite, certo. E quindi non c'è alcuna variazione del tracciato. Questo è a dimostrazione, è a dimostrare che appunto l'efficacia di questi neuroinibitori. La gravidanza è una maturazione, uno sviluppo, una maturazione biologica, è proprio alla nascita che, si attiva il cervello, e allora prende forma la realtà psichica, che è il pensiero, che poi è specificamente umano. Quindi anche parlare per esempio degli esperimenti che si fanno sulle pecore, eccetera, su feti, non è paragonabile, è così. Proprio a parte chi viene accusato di specismo, non è paragonabile, perché il cervello è diverso proprio. È diverso, tanto è vero biologico. Che i pattern REM e non REM sono specifici per la specie, quindi nell'essere umano è diverso dagli altri primati e tanto più dagli altri animali. Quindi non so, addirittura c'è una differenza fra individuo e individuo nell'essere umano, in questi pattern, cioè perché la costruzione del cervello è completamente diversa anche da individuo a individuo, cioè ci sono delle variazioni, la sostanza è chiaramente uguale, però ci sono delle variazioni. Ma quindi, mi scusi, di nuovo per capire e magari provare a fare veramente chiarezza su questa cosa, lei da medico, da neonatologa, in base alle ricerche mediche, agli esperimenti disponibili oggi, non c'è nulla che indichi che prima della nascita il feto sia pensante in qualche maniera, abbia un'attività cerebrale compatibile con il pensiero, lasciamo perdere. Assolutamente no, perché il riflesso l'abituazione è un fenomeno di difesa, è un riflesso che rimane, cioè è una perdita di efficacia della sinapsi, per cui si inibisce e non manda più lo stimolo, ma non è memoria, la memoria è un'altra cosa. Quindi tutto ciò che l'allargamento e la chiusura delle braccia, se si tocca il feto attraverso la parete addominale della mamma, è solo un riflesso di Moro, che non ha alcun contenuto emozionale, cioè non è che il feto si spaventa, è solo un riflesso che si può evocare toccandolo e scuotendolo, oppure con vibrazioni, come hanno fatto appunto questi ricercatori. Quindi i dati medici confermano ad oggi, secondo lei, senza la possibilità di dubbio, che pensiero, memoria, sogni e quant'altro iniziano, vengono attivati proprio materialmente solo alla nascita? Solo alla nascita. C'è una trasformazione proprio tra il prima e il dopo, e questo è eclatante anche dalle ultime scoperte che sono state fatte soprattutto su questi neuroormoni inibitori. Dottoressa, grazie tante. Prego. Finalmente speriamo di aver fatto chiarezza su questa questione. Grazie ancora e arrivederla.